Puntata di questa settimana di Festivals Backpack, facciamo onore al nostro nome e intervistiamo il direttore artistico di uno dei festival che vi abbiamo già raccontato negli anni scorsi e che quest'anno torna con dei nomi bellissimi. Sto parlando di Barezzi Festival e siamo al telefono col direttore artistico Giovanni Sparano. Benvenuto. Buonasera, buonasera. Come va? Tutto bene? Tutto bene, voi? Tutto a posto, non vediamo l'ora di ascoltare tanta buona musica e siamo stati molto incuriositi tra l'altro dal programma di quest'anno, perché sì. Barezzi Festival anche quest'anno ha dei grandissimi nomi. Io ti chiederei, siete intanto alla 17ª edizione, quindi insomma sì. tanti anni di questa manifestazione. Quest'anno quando si terrà Barezzi Festival? Quest'anno è un'edizione molto ricca perché avremo ben due anteprime e poi il festival dal 19 al 26 di novembre a Parma. Le due anteprime, la prima ci sarà martedì 24 ottobre al Teatro Valli di Reggio Emilia con i Calexico, l'unica data italiana, e poi avremo l'11 novembre questa introduzione al festival con una serata per i giovani con Sadar Bar, Daniela Pes e Gigi Testa, in questo spazio ipogeo che è sottoposto all'Auditorium Paganini. E poi si arriva nel vivo del festival, che anche quest'anno però ha tante date, perché se non sbaglio dura diverse giornate. Sì, quest'anno è molto lungo perché c'è stata questa coincidenza con il passaggio di tutti questi artisti che erano coerenti con la nostra linea, allora ho voluto fare questo strappo alla regola, non me ne sono voluto proprio risparmiare neanche uno. Cominceremo proprio con questa band statunitense degli Yorkerville River al Magnani di Fidenza, poi approderemo al Teatro Reggio il 20 con Jesus and Mary Chain per l'unica data italiana di questa band, idem per Blonde Red Dead con il nuovo disco il 21 e sempre unica data italiana. Poi avremo questo pianista incredibile francese Maxence Seren che sarà all'Auditorium del Carmine, i mitici Giant Sand che creano questo filo con i Calexico, sono stati già a Reggio Emilia. Poi abbiamo Stuart Brett White che è il frontman dei Mogwai, Mika Pinson che ha fatto un album strepitoso, e poi chiudiamo con i mitici Lamp Chop nel teatrino Giuseppe Verdi di Busseto. Proprio riguardo alla programmazione e a questi nomi, uno diciamo forse dei tratti più caratteristici di Barezzi Festival è di avere portato veramente dei nomi grandissimi in Italia, spesso con tante esclusive, tante anteprime insomma, anche però anche molto ricercati, quasi sempre dei gruppi che non erano mainstream tra virgolette. Io ti chiederei sì. come avviene la scelta degli artisti che poi calcano il palco appunto del teatro o comunque dei luoghi di Barezzi Festival? Ma la scelta avviene prima di tutto su un profilo, come hai detto, non troppo mainstream, con una linea che ha un profilo molto internazionale, con soprattutto con questo grande effetto tra la loro naturale posizione e il luogo dove poi vanno a suonare, cioè un teatro, cioè vedere i Jesus and Mary Chain, oppure qualche anno fa i Fontaine D.C., oppure gli Echo and the Bunnymen o Anna Calvi dentro un teatro d'opera, crea per gli ospiti, i clienti del Barezzi una sensazione unica, un'esperienza sicuramente inimitabile. Quindi c'è questo profilo legato anche alla musica che è soprattutto legato con tutto quello che c'è di interessante a livello europeo, quindi noi seguiamo molto il mercato che è fuori casa nostra. Cerchiamo di portarlo per questi pochi giorni in questi luoghi che normalmente sono battuti dalla lirica. Allora adesso ci ascoltiamo i Blonde Red Dead e poi dopo torniamo da te per fare altre domande su Barezzi Festival. Ok, grazie mille. Dicevamo che quest'anno questa manifestazione ha anche come novità il fatto di calcare dei luoghi nuovi, perché appunto il cuore di Barezzi Festival è sempre stato il Teatro di Parma, però sia le anteprime e sia durante la manifestazione abbiamo visto che ci sono altri luoghi. Ecco, com'è successa questa espansione e come sono stati scelti i luoghi in cui far vivere il festival anche al di fuori del Teatro di Parma? Allora, noi partiamo proprio dall'idea di far rivivere i luoghi della lirica sotto una veste diversa. Già l'avrò spiegato proprio anche a Radio Città Fugico che tutto nasce dalla mia passione per l'opera, perché io facevo la comparsa e quindi mi sono appassionato alla vita di Verdi, perché comunque in quel periodo vivevo a Parma e ho sempre pensato alla, all'importanza di un mecenate come Antonio Barezzi, che ha dato l'opportunità ad un ragazzo delle Runcole di studiare, di portarlo a casa sua, di farlo studiare al conservatorio dove è stato bocciato e poi oggi si chiama Giuseppe Verdi. Che questa perseveranza mi ha colpito molto. E io ho pensato, perché non posso, cioè sognavo all'epoca di far entrare altra musica all'interno dei luoghi della lirica. Piano piano ci sono riuscito. Devo dire che questo messaggio negli anni, dopo 17 anni, viene percepito anche da altri. Per esempio, quest'anno siamo stati invitati proprio dal Teatro Valli, dalla Fondazione dei Teatri di Reggio Emilia, siamo stati invitati lì e ci hanno chiesto di portare un concerto del Barezzi. Quindi non siamo stati noi a proporci, ma siamo stati invitati. Per me è stata una grande soddisfazione. Il Teatro Valli è un teatro dell'Ottocento, fa 1.100 posti, 5 ordini di palchi, è bellissimo. I nodi sono legati proprio da questo filo conduttore, anche perché in quella parte dell'Emilia Romagna ci sono questi gioielli che sono il Magnani di Fidenza, che è sempre un teatro lirico che fa 500 posti, il Teatro Verdi di Busseto che ne fa 250, c'è il Teatro Regio, poi c'è questo Auditorium del Carmine che è una chiesa gotica consacrata, dentro ci hanno fatto questo auditorium fantastico dove noi faremo questi quattro concerti. Poi in quei giorni daremo anche un carattere a queste osterie, daremo una guida ai clienti, perché abbiamo molti abbonati che seguiranno il festival per tutti questi giorni, quindi diamo la possibilità e consigliamo alle persone dove andare a mangiare, lì, anche lì riempiamo con la musica e di contenuti. Anche in questi spazi, quindi ci sarà della musica che portate voi? Sì, questo progetto si chiama Barezzi Snag ed è proprio, siamo dei giovani cantautori che all'ora di pranzo, il venerdì e il sabato, in contemporanea, in 6 osterie del centro, suoneranno il loro repertorio mentre le persone mangiano dei menù dedicati al Barezzi. Barezzi si svolge a Parma, che è una città che si presta a questo tipo di esperienza, perché c'ha un'area pedonale molto estesa, le persone si dimenticano della macchina. Quest'anno si arricchisce anche con un quartiere generale che è all'interno della Casa della Musica, dove c'è questo caffè che sarà un po' il punto di ritrovo durante il giorno, dove faremo le interviste, dei piccoli concerti, eccetera, che è un luogo che è a 500 metri dal Teatro Regio. Anche la scelta del periodo è voluta proprio perché inizia a fare freddo, quindi c'è una bella atmosfera proprio che vuole far riscaldare, diciamo, le persone sia nei concerti che negli altri posti. Io ti chiederei un'ultima cosa prima di salutarci. Prima, io ti volevo chiedere, insomma, in questa intervista come mai è dedicata a Barezzi questa manifestazione, ma appunto ce l'hai detto, è stato un visionario anche, no? Ha visto cose che qualcun altro non aveva visto. E diciamo che anche quello che avete fatto voi in un qualche modo è stato visionario, cioè unire dei luoghi che non erano deputati, diciamo, a un certo tipo di musica, invece riuscire in questa scommessa e riuscire a farlo per 17 anni. In questi 17 anni come è cambiato Barezzi Festival e come siete riusciti anche ad adattarvi a tutti i cambiamenti e gli eventi che ci sono stati? Ma prima di tutto è cresciuto tantissimo proprio da un punto di vista della produzione, proprio perché riuscire a creare e portare questi concerti all'interno di un teatro lirico è veramente difficilissimo, proprio perché c'è tanta burocrazia, cioè ci sono tanti uffici che devi collegare, devi far ragionare, che normalmente sono molto squadrati, no? Sulla formula della lirica. Quindi nel corso degli anni ci siamo fatti apprezzare. Dal 2019 addirittura la Fondazione Teatro Reggio è coproduttore del progetto. Quindi questa per me è una delle vittorie più grandi, proprio perché se penso che ci facevo la comparsa, adesso siamo insieme al tavolo a organizzare, quindi è diventata una grande famiglia dove noi per tanti anni abbiamo sempre rispettato questi luoghi e cerchiamo di far percepire anche questo, cioè nel senso che un concerto dei Blondie Redhead o dei Jesus & Mary Chain non può essere lo stesso concerto che si suona in una discoteca o in un hangar. C'è proprio un rispetto anche da parte del pubblico di questo posto, di quello che si fa, e questa cosa si percepisce ed è veramente bellissima. Da un punto di vista invece della programmazione musicale, diciamo che noi abbiamo avuto, devo dire, dal 2015 un cambio di passo importante, anche perché coincise un po' con la nona, la decima edizione. Siamo riusciti negli ultimi anni comunque a portare Rufus Wainwright, Benjamin, dei nomi che per la prima volta abbiamo portato in Italia, come Benjamin Clementine, Michael Kiwanuka, Fontaine D.C., è venuto il grande Philip Glass, Herbie Hancock, Wim Mertens con l'orchestra, cioè tutti concerti da un profilo internazionale molto alto che hanno arricchito tantissimo il festival anche nella propria credibilità. La cosa che mi fa piacere, che mi appaga, è che comunque prima, adesso le persone nominano Barezzi, era un nome un po' difficile da digerire, ma adesso lo accomunano subito al festival, per me è un motivo di grande orgoglio. È stato un bellissimo percorso, insomma, allora in questi 17 anni per raggiungere questi traguardi. Io allora ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Ricordiamo che il Barezzi Festival si terrà dal 19 al 26 a Parma e in altri luoghi con due anteprime. La prima c'è appena stata e poi c'è anche l'11 novembre che sarà un'altra anteprima. Per tutte le informazioni c'è il sito e ci sono i social del festival che insomma immagino sono sempre aggiornati. Io ti chiederei se ti va di scegliere una canzone per salutarci e per invogliare insomma anche le ascoltatrici e gli ascoltatori a raggiungere. Giungerci a Parma. Sì, c'è questo brano, questo pianista, Maxence Rennes, che veramente sta spopolando sul web, molto spesso non è accomunato a lui e noi lo avremo al festival. Questo brano si chiama Where is My Mind, veramente favoloso, c'è l'opportunità di ascoltarlo il giorno 22 all'Auditorium del Carmine a Parma. Perfetto, allora ti ringraziamo tantissimo e ci vediamo a Parma. Va bene, grazie. Grazie a te.